And my name is Ragnar Paisa. Ragnar Paisa. C'era il microfono, era bassissimo. C'era il microfono, forse c'era in regia. C'era il microfono in terrazza. C'era Andrea Mi in regia prima di noi e c'era il microfono, era posizionato sotto la scrivania. Non sta bene, fa battute su trince. Ciao Andrea, ti salutiamo. Ciao Andre. Ti salutiamo sempre. Certo, ci potrebbe anche venire a trovare una volta. Ora vabbè che c'ha il suo da fare, però. Buonasera a tutti, buon lunedì a tutti, buon inizio settimana a tutti. Questo è Ragnar Paisa. Hello. Il programma del lunedì sera. Il programma più amato e seguito dagli italiani. Il programma all'estero. Il programma più il programma delle 9:30 di lunedì sera più seguito e amato. Dalle massaie. Dalle massaie. Certo. Di Lamporecchio. Lamporecchio. Mentre mangiano i brigidini ascoltano Ragnar Paisa. Dalle casalinghe. Dove erano le casalinghe di? Le casalingue. Le casalingue. No, le casalinghe di... Ma non lo di so. Di solito si dice le casero, non mi viene in mente. Tipo le casalinghe di Voghera, boh, non me lo ricordo. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè. 055-73-999-33 è il nostro numero di telefono bollente. Il numero che non farete mai il nella numero vostra che non vita. Farete mai nella nostra e nella vostra vita. Nella vostra anche vita. In quella dopo. Nella prossima. Nella prossima. info.ragnampaisa, scritto Ragnampizza. Però non mi dite Ragnampizza se mi trovate per la strada, perché potrei infuriarmi. Io ve lo dico perché, se no, no, siccome non sapete l'inglese, vi devo dire anche come si scrive. Ma però alla fine Ragnampizza. No, Ragnampizza, cioè uno una volta mi disse ragni in piazza. Pensavo cioè, Runner Pizza. Runner Pizza è bello, sì. info.ragnampaisa@gmail.com è la mail che potete usare per scrivere, e ragnampaisa.blogspot.com. Chi c'è là di là da vedo, ma non lo so, movimento. C'è un signore, ora si sente. Si sente il che sente vuoi. Che vuoi. Che c'è? Ma che tu vuoi? Ma che face? Ma che se beige? Ora il direttore che è venuto a licenziarci, magari, non ma lo so. Ma sì, tanto guarda, ci cambia poco perché si piglia 0.000 lire. No, volevo dire subito una cosa così simpatica, visto che anche un nostro caro amico ne è coinvolto, che l'11 aprile uscirà... Che ridio! Ai, ai, ai! Nulla, ai, nulla! Ai, caramba! Che ha fatto? Ha fatto versacci di là dalla porta? No, mi ha preso la ridarella. Allora, l'11 aprile uscirà in streaming e download gratuito su Rockit una compilation che si chiama Con un Deha. Cosa ti ricordi? Cosa potrebbe essere questa? No, questa compilation che si chiama Con un Deha. Sembra un nome un po' compromettente. Perché lo scorso 10 febbraio ha compiuto 20 anni, niente meno che hanno ucciso l'Uomo Ragno. Oh my god. E quindi Rockit ha pensato bene di mettere insieme tutta una schiera di artisti provenienti dalla scena italiana, dalla nuova scena italiana, quelli giusti, no quelli di Bono, da Amici e della De Filippi e compagnia bella, quelli non si considera neanche musica, la roba lì, gente seria, perlomeno noi, poi voi fate che vi pare. E quindi è stata fatta questa compilation tributo, questo album tributo agli 883. E chi c'è dentro? Se lo sai. Ora, sì, c'è 20 artisti. Ci sono 20 artisti, ora ve ne dico giusto qualcuno. Ci sono i Cani, che chiaramente con un de che con un deca che già facevano dal vivo, che tra l'altro al Magnolia fecero anche assieme a Max Pezzali, cioè Max Pezzali salì sul palco a fare insieme. Attenzione, per i non fiorentini. Poi, stiamo parlando del gruppo I Cani. I Cani, per sì. I fiorentini stiamo parlando del gruppo I Cani. I Cani, ok? Bene. Non sei? I Cani, bene. E poi c'è Colapesce, che fra l'altro c'è già il video online che fa gli anni. Poi ci sono Amorfu e Antitech, come mai pregando un synth. Poi Casa del Mirko, Ex Otago, genovesi forti, fanno Sei un mito. Poi Macrobiotics, e sono Nick Sarno e Dargen, che già fecero, ricordo, Balera Steppin, che era un album, sì, era un album dove Dargen rappava sopra canzoni italiane tipo di Vasco Rossi, di De André, cioè, su roba elettronica, sono andato da Sarno, e che fa la regola di D'Amico. E poi c'è Squilli di Trombe, Gammon. Science. Ah sì? Gammon Science. Sì, sì. Gammon, anche se non, vuole, se non vuole più Science, però è uguale. Però è uguale, Gammon Science. Che fa TPS, Ti Porto Sfiga. Madonna, sai. Ma vaffanculo tu e le banalità. Guarda, sono mezzo felice di non ricordarmele. Vabbè, poi Amari... Beh, un sacco di gente. 11 l'11 aprile andate su Rock It, se siete dei nostalgici di Mauro Repetto e di Max Pezzali e dei vecchi 883. E dei vecchi 883. Bene. E scaricatevi o ascoltatevelo. Si va a vedere chi c'era di là. Si va a vedere chi c'era di là e si lascia Bubu che vai. Scalpita nell'acquario. Vai, vai, vai, a fra vai, un vai, po'. Vai, vai, vai, vai. Nigeria is colonial as far as the ethnic minorities like the Ogoni are concerned. The interests of Shell and of those who are running Nigeria at this time. With me, sometimes I have the dynamite, sometimes I have the fence, sometimes the purple hair or the white widow, sometimes the chocolate latte or some British Columbia, either that or alpha from Humboldt that is sprung to ya. One for the Mary, two for the Juana, three for the Earthman in the house and on the corner in the car, circulating near and far, trying to be a rap star, cause fuck the drug war. I chain smoke cherry sweet sativa by the cherry leaf, or on a zigzag, pray before I take the drag, hemp makes the best flag, that's why I burn it, looks the size of Miss Piggy, the color of Kermit and Sticky. Now pick me a bud, if you were growing we could blaze bows, trade bows, while I blow halos, sick holes, and sit real sick against a dark backdrop, even spark with my pop, the most odorous crop, puff 112L, still we gon' stop, with the hashed out hip hop, see, I'm an artist, and music is my easel, my flip is like a paintbrush, flowers in the beat. In Spain it's Trumpito, Italy, Spinello, in India bang, and Tokyo with Boom Shiva, in Australia they mullet, in Jamaica it's a snake, some Hawaii Papalolo. Today the Candyman came through to borrow the triple beam and waste some real fluffy ass outdoor green. Oh yeah, we got that outdoor and that indoor and that hydro. Open up your Bible, start flicking like a pyro and read the part about herbs and seeds. how man has the deeds to do what he needs with weed. I agree, but not because of that. I pulled the zigzag after long four tracks before acts. And then by John 420 bust the track. You see the mellow Mary Janiac state the facts of life and death and beyond. A visionary virtuoso rap phenomenon. Violent microphonicon transform me a brainstorm. Once I slice a blunt through the side like a tauntaun. I'm not a Don Juan, more like a marijuana don with a lay made a la la on. I burn on the couch or in the college dorm. I burn outside or at the ball game. I burn at the club, I burn in the bar, I burn in the ride one time that check me out, I'm not a dude. Eccoci. No, lo sai, non è. Mi sa che stavo alzando, il cursore è sbagliato. Ci siamo? C'è una tre. Eccomi, eccolo ora. Mi senti? Allora, 055-73-99933 è il nostro numero di telefono, che tutte le volte vi ricordiamo con grande passione, perché insomma ci fa sempre piacere quando ci telefona. Sì, solo a te. Sei l'unico. No, fra l'altro dicevo, siccome ci sbattiamo sempre per cercare quali sono le serate, se ci sono serate, per magari per dirle. Ora, a noi chiaramente, essendo nel giro, ci arrivano un po' di rimbalzo, lo sappiamo, le vediamo, però magari qualcuna ce ne sfugge. Quindi se ritenete opportuno che le serate delle quali siete a conoscenza o che volete promuovere, ma anche fuori da Firenze, proprio a giro per l'Italia, mandateci una mail o telefonateci direttamente e saremo ben lieti di annunciarle. Chiaramente, cioè, ci dite di buono il festino con Bonghi sulla spiaggia. Come no? E è la solo quello, assolutamente. Solo si vuole quello. Solo solo grigliate. Solo grigliate, puzzo di piedi e ascella sudata. E fuoco. A parte questo, possiamo ricordare che sabato prossimo, sabato 7, ci sono i Meat Puppets alla Flog. Che dici? Che fai? No, vabbè, c'è. Tommy ride. Tommy c'è da quando è arrivato che ride. Lascia stare. Ci sono i Meat Puppets alla Flog. Chi non conosce Meat Puppets... vi potrei dire sono un e gruppo. Chi conosce la Flog e chi conosce la Flog 20 anni di musica chi non conosce la Flog vi posso dire è in via Mercati e chi non conosce Meat Puppets vi posso dire sono un Phoenix a Phoenix Arizona fanno gruppo storico sì. Un gruppo storico hardcore. Hard rock, poi hanno fatto hanno variato un bel po' è sì, tantissimo hanno fatto anche sono, sì hanno fatto robe anche country acustiche fin lì non ce l'arriva comunque cioè magari vi può venire in mente che i Meat Puppets sono stati uno dei gruppi preferiti di Kurt Cobain e dei Nirvana. Sì. Pensavo roba più grossa. Fra l'altro, infatti, uno dei Meat Puppet era anche in Unplugged in New York. Infatti, in Unplugged in New York, i Nirvana fanno, mi pare, un tre pezzi dei Meat Puppet. Lake of Fire di sicuro. Lake of Fire dei Meat Puppets e la fanno di sicuro. Quell'altro, sinceramente, non me le ricordo. Domenica 8 aprile, che è Pasqua, la Santa Pasqua. Santissima. Al Viper vi è DJ Hype con MC Daddy Earl. Quindi storie di Olivo Benedetto. Olivi Benedetti, ovi di Pasqua. Dopo che avete mangiato i tortellini con l'ovo sodo dentro e il crostino di fegatini. Con l'olivo Benedetto. Con l'olivo Benedetto e il crostino di fegatini Benedetto. Dentro dall'olivo. Dentro il brodo Benedetto. Potete andare a digerire, Sì. Al Viper, storia di drum and bass, digerisce per forza. DJ Hype, digerire per forza, fate due capriole. Vi butto inoltre due robe così da andare a cercare su internet, ovvero il podcast è uscito già da una settimana se non mi sbaglio. Comunque il podcast nuovo di Echo Unlimited che ha questa girata a cura di Martini e Giopparelli. Nostri, no, non importa che vi si stia a spiegare chi siano Martini e Giopparelli perché insomma... Vabbè, ricorda il sito magari. Sì, sì, per... è Music Selection, il sito è musicselection.it.com. Madonna, non me lo ricordo mai. Io c'ho il link ormai da millenni. C'è la memoria proporzionale ai capelli. Sì, infatti... ne preferiti, quindi comunque basta che scrivete su Google Martini e Giopparelli Music Selection è il loro fantasticissimo blog. Se andate su Echo Unlimited scritto ECKO Unlimited UNLT.it è il sito di Echo Unlimited o comunque scrivete Echo Unlimited SoundCloud, fate un po' quello che vi pare, però se andate sul sito di Echo Unlimited vi leggete anche l'intervista, ci sono due paginettine di intervista a Martini e Giopparelli e ve la leggete mentre vi sentite il mix. Mentre sul sempre nostro amico fratello Fabio Fugo per Passion Junkies su passionjunkies.it scritto Passion Junkies con la K con la K e la J all'inizio la J.it anche lì se andate nella selezione podcast o comunque exclusive ci sono tutta una serie di podcast. I vecchi, fra i vecchi c'è sempre roba di Cioparelli, c'è anche tra un po' mi sa il che mio deve andare sul e mio. Il prossimo, infatti, ho detto apposta questo perché ha avuto problemi in questi giorni a uploadare. Però ecco, io credo che in questa settimana sicuramente il tuo, mi scrisse l'altro giorno Fabio, il tuo andrà online. Okay. Eh? Che roba c'è dentro? Ma c'è un po' di Orietta Berti. Cioè, vabbè, quella sempre in finale, in apertura e chiusura. Un riedit. C'è un po' di roba di Baffo Banfi, c'è un po' di dub, ci sono un po' di anche di produzioni che usciranno, diciamo, released. Che usciranno a released, che usciranno, cioè che non, cioè, usciranno, non usciranno mai, quindi a released lo comprate, è un MP3 vuoto, esatto, e quindi famoso pacco e niente, poi ve lo ascoltate, ci sarà tutto scritto, tutto quello e le informazioni che ci devono essere. Bene, detto questo possiamo lasciare Tommy, sì, che sta già nuotando nell'acquario alla sua selezione. Attenzione, questa è Faustona. Quanti ricordi. Pra mim. o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Thank you. mentre fede nel destino. Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo un uomo nero, chiamo il babà, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va. Non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura. Fa parte del gioco, tu non facci caso, se non vivi poco, tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Convocou o Senado e proclamou-se Deus, e proclamou-se Deus. Tengo, tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, tengo, tengo. Colombo já dizia, eu ponho um ovo em pé, mas só eu sei como é, mas só eu sei como é que é. Navegante da pesada e coisa e tal. Se eu for a lua qualquer dia vai ser coisa normal. Tempo, tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Tem juiz de futebol que é durão no gramado, mas na intimidade é muito dedo delicado. No seu terreiro sempre tanto afinado, e numa terra de cegos quem tem um olho é rei. Itapiru, atapiru, atapiru, ó rei. Quem tem um olho é rei, quem tem um olho é rei. Itapiru, atapiru, atapiru, ó rei. Quem tem um olho é rei, quem tem um olho é rei. Colombo já dizia, eu ponho um ovo em pé, mas só eu sei como é, mas só eu sei como é que é. Cabral foi navegante da pesada e coisa e tal. Se eu for a lua qualquer dia vai ser coisa normal. Tempo, tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo, tempo. My rhymes create life like the birds and the bees. Make funk master flex, say, yo, I'm feeling me. Flows make your shit in your jaws, change your dungarees. Smoke trees, get cotton mouth while I'm munchies. Bounce down the block, eat food at Luigi's. Ass constipated, too much extra cheese. But anyway, while I was cooling down at Luigi's, I met some Siamese twins from overseas, Lebanese. Left me in with friends from New Orleans. They had a fifth friend, she was straight black Portuguese. Pretty palm olive, soap skin, aloe vera leaves. She looks like the type of chick you only see in fantasies. The type of chick that you kill for to get between the knees. I make time to chill with Miss Portuguese. Would you believe the bitch tried to steal my fucking house keys? Right before my G's, had to show this crazy broad I mastered my degrees and my PhDs. Got your face on camera, motherfucker, say cheese. You better get with your friends quick before I start to squeeze. Getting caught up in them freaky gold digger jamboree. I caught the ill vibe tip. Your word. The ill vibe tip. Your word. Cause when I'm in the place, you know my shit be absurd. I caught the ill vibe bus. Word tip. Your word. The ill vibe bus. Word tip. Your word. Yo, when I hold the mic, you know my shit be absurd. I caught the ill vibe bus. Word tip. Your word. Uh. represent the form in this beat. Ain't nothing sweet on the street for good. These I compete. Come on, complete and unique. So get back in your stance. We enhance and we play in the whole world circumstance. So do good in your hood, even though you puff fly. Positive to comply. Don't screw face and act right. Progress. Don't fall back. We can't have that. I hold your hand black. We can't wind up with scratch. I put my best foot forward where I play in life. Cause this world is bound to get you like a double-edged knife. In the gym, we regulate, cause we organize. Logically, taking with a lost enterprise. A lot of brothers from the ghetto got the gift to gab. Peace through the west coast and the east, we fab. Oh, need I make mention that the crew we got make things get hot like a fofo shot. Blah. No, we don't promote no guns, but don't turn that cheap. In the world that we live, kindness is viewed as weak. So we gotta stay on point for all these lizards and snakes. Some of them come as friends, some of them come as jakes. We decipher all the fours and build grounds with our friends. Why is that? So we can live right until time ends. Yo, why is that? Amalgamate so we can hit the truth. I wanna be able to reach an MC and reach a little child in the same degree. And my elders excel. I mean, what the hell? We might as well bridge these gaps and all before we fall into fire. MCs upon a planet called real, trying to set it. Profess my techniques, a legend. Inaccurate perception of reality embedded in they mind. Thus they rhyme, I discredit. Check it out. I use my music implemented with jewels as thought tools to inspire all these two cool fools who say screw school. Cause they don't see the conspiracy that's put here to trap you and me. But y'all know the battle, Lieutenant. On some whole nother other finesse genetic. They say I get it from my mother, so it's inherited. Terry and very necessary to shine legendarily, heavily refined. Contemporaries like the roots are so red. It's like, dang, which bag did they come out of? And how could I get in it and win it? Like a raffle ticket picking. If you feel it stuck, then guess who did the sticking? I got this agile style up close and personal. The first to file, I violate, I shall retail. Liate with realism for they whole locale. To relay, we on point like that's a mountain. Abstract now, MC while I'm breathing. What I'm seeing is believing that you can host the ceremony and the dose is never phony. In fact, it's quite therapeutic like a B12 hypodermic needle. So true. Lyrically illicit up steps to explicit. Most wicked seven-digit mic wizard. My tongue lash out then strike with it. Just slightly might miss it when I blast through your section. A district of ripping from the If you're Puerto Rican and you know we clap your hands. If you're Puerto Rican and you know we clap your hands. If you're black, Spanish, white, whatever, everybody clap your hands. And it's the Puerto Rican rebel. Crank up the treble, pump up the bass. Do I'm going ape, the kid from the tape. What's going on, what's going on? Niggas can't deal with Thank you. instead of going to school, they'd rather sell drugs. It's best to go the right route and not the wrong one, because it's gonna catch up with you in the long run. Brothers be on the corners acting stupid, getting lifted. Their life is twisted, and most of them are quite gifted. In other words, they got talent, but they'd rather sell cracks and bust gats and run the streets acting violent. To them, it's all about hitting skins and making some easy green, because that's all they show you on a TV screen. All they care about is a buck, a bust, and a sweet nut. They don't give up, because they street struck. You better listen to an L rhyme, because being street struck can get your life for the water than jail time. So pay attention to an L rhyme, because being street struck can get your life for the water than jail time. Before the rap contract, I was selling crack. Stage strapped with a Mac, I was into all of that. I started rapping and got my peeps are still in the game, selling cane. If that's what you gotta do to maintain, go ahead and do your thing. But with the cash profit, make an investment. Try not to get to the grave like a crazy loop. Own a house and 9 cars. What good is that if you're dead or behind bars? And yo, it's not even funny. I seen a lot of my peers give up their careers for money. They could have been boxers, ball players, or rap singers. Instead, they bank robbers and crack slingers. Yo, they used to be legit kids, now they corrupt. They had dreams, but gave them up, cause they street struck. You better listen to an L rhyme, cause being street struck. Either calling up some freaks to bone, but word up, I try to leave the streets alone. But it's crazy hard getting other words. Streets be calling me like the crack be calling me. It ain't a dumb joke, listen to the shit. That's where I'm from. You can choke from the that might be your best. C'è Duccio che si diverte. E in sottofondo sta andando Street Struck di Big L. Dal disco da cui ormai non ho più niente da attingere, perché in 3 anni che siamo qua penso di averle suonate grosso modo tutte, insomma, quelle da ammettere. È l'album dove c'è Put It On, per capirci. Super. Il primo album di Big L. Storie di milestone proprio, pezzi di storia del rap. Poi prima è passato Os Mutangi, Paolo Dinis, che ho messo? Non mi ricordo neanche più. I Roots, Tribe Called Quest. Tribe Called Quest, no, erano i Roots con Q-Tip dei Tribe Called Quest. E poi un pezzo da un disco da cui ormai anche lì non so più che tira fuori, perché l'ho suonate tutte. Un estratto dall'album di Frankie Cutlass, che chi non ce l'ha se lo vada subito a prendere, si chiama Politics and Bullshit. E il pezzo è quello tutto con la banda dei portoricani, cioè Fat Joe, eccetera. Insomma. Coltelli, lame, nel calzino, storie così, insomma. La vecchia. Catenacci intorno all'orecchio e via. È motorino. Bene, non c'è rimasto, mi sa, nulla da segnalazioni, storie di boh. Salutiamo. Pandini ribaltati da segnalare, sicché basta, si saluta. Ci si sente lunedì prossimo, sempre alle 21 fino alle 22.30. Salutiamo i bigaioli. Salutiamo i bigaioli, chiaramente, che non c'è, ma è come se ci fosse. È come se ci fosse. È sempre qui con noi, il bigaiols, e a tutta la family. Saluti a France, che ci è passata a trovare. A differenza di altri che dicono passo lunedì e poi non si vedo mai, vero grana? Oh! Vabbè, stateci bene, ci sentiamo settimana prossima e va Duccio fino alle 22.30. In esaurimento scorte. All'esaurimento nervoso. Quindi tra 2 minuti rientriamo in voce. Esatto. A dopo. Ciao. We'll be right back. I want more. Luminosity.